Il principe di Castelforte era occupatissimo di Corinna e tutti gli italiani che componevano la sua società le mostravano un sentimento che si esprimeva con le cure e con gli omaggi più delicati e i più assidui. Il culto abituale con cui la circondavano spargeva come un'aria di festività su tutti i giorni della sua vita. Corinna era contenta di essere amata, ma contenta come lo si è di vivere in un clima dolce, di sentire armoniosi concerti, di non ricevere, insomma, che piacevoli impressioni. Il sentimento profondo e serio dell'amore non si dipingeva sul suo volto, sul quale tutto era espresso attraverso la fisionomia più vivace. Osvaldo la guardava in silenzio. La sua presenza animava Corinna e le ispirava il desiderio di essere amabile. Ella si riteneva, tuttavia, qualche volta nei momenti in cui il suo trattenimento era più brillante, maravigliata della tranquillità esteriore di Osvaldo, ignorando se ella avesse fatto un qualunque effetto su di lui o se gliela biasimasse in segreto e se le sue idee inglesi gli permettessero di applaudire a tali successi in una donna. Osvaldo era troppo preso dalle attrattive di Corinna per rammentarsi allora delle sue antiche opinioni sulla oscurità che conviene alle donne. Ma egli si interrogava se lui potesse essere amato da lei, se fosse possibile di concentrare in sé solo tanta abbondanza di raggi luminosi. In poche parole, egli era nello stesso tempo incantato e smarrito, e sebbene alla sua partenza ella lo avesse invitato con la maggior cortesia a ritornare a vederla, lasciò scorrere una giornata intera senza andare in casa sua, provando una specie di terrore per il sentimento che già lo trascinava là. Qualche volta paragonava questo nuovo sentimento all'errore fatale dei primi momenti della sua giovinezza e quindi respingeva vivamente tale confronto, poiché era stata l'arte e perfida arte che lo aveva allora soggiogato, mentre ora non poteva dubitare della sincerità di Corinna. Il suo incanto aveva del magico o dell'ispirazione poetica. Era lei Armida o Saffo? Si poteva sperare di accattivarsi mai un genio fregiato di ali così brillanti? Gli era impossibile deciderlo, ma si sentiva almeno che non era la società, ma che era piuttosto il cielo medesimo che aveva formato quell'essere straordinario e che il suo spirito era tanto incapace di imitare quanto lo era il suo carattere di fingere. «Oh mio caro padre», diceva Osvaldo, «se aveste conosciuto Corinna, che avreste voi mai pensato di lei?» Capitolo 2. Il conte d'Erfeuil venne, secondo il suo solito, la mattina da Lord Nelville e, rimproverandolo di non essere stato il giorno prima a far visita a Corinna, gli disse: «Voi sarete stato ben contento se vi foste venuto». «E perché?» rispose Osvaldo. «Perché ho acquistato ieri la certezza che voi la interessate vivamente». Sempre delle leggerezze, interruppe Lord Nelville. Non sapete voi dunque che io non posso né voglio averne? Voi chiamate leggerezza, rispose il conte d'Erfeuil, la prontezza delle mie osservazioni. Ho io meno ragione perché ho ragione prima? Voi siete tutti fatti per vivere nei tempi felici dei patriarchi, nei quali l'uomo aveva da campare 5 secoli. Vi avverto che almeno 4 ce ne sono stati troncati. Oh, sia come voi dite, ripigliò Osvaldo, ma queste vostre osservazioni così rapide che vi hanno fatto scoprire? Che Corinna vi ama! Ieri mi sono presentato a lei, senza dubbio mi ha ricevuto benissimo, ma i suoi occhi erano fissi verso la porta per osservare se mi eravate dietro. Ella ha tentato di parlare per un istante di altre cose, ma siccome è una persona di estrema vivacità e naturalezza, così mi ha domandato, infine, con la maggiore semplicità, perché non eravate venuto in mia compagnia. Io vi ho biasimato, non ve la piglierete con me, le ho detto che siete creatura di carattere cupo e bizzarro. Ma io non vi sto a dire, peraltro, tutti gli elogi che ho fatto di voi. È malinconico, mi ha detto Corinna, ha perduto senza dubbio una persona che gli è stata cara. Per chi porta mai il colore scuro addosso? Per Per suo padre, signora, le ho risposto, benché sia più di un anno che lo ha perduto, e siccome la legge della natura ci obbliga tutti a sopravvivere ai nostri genitori, mi immagino che qualche altro motivo segreto sia la cagione della sua lunga e profonda malinconia. Oh, riprese Corinna, io sono ben lontana dal pensare che delle pene apparentemente simili siano ugualmente dolorose per tutti gli uomini. Il padre del vostro amico e il vostro amico medesimo escono forse dalla regola generale, io sono dispostissima a crederlo. La sua voce, soggiunse il conte, era dolce oltre ogni credere, mio caro Osvaldo, nel pronunciare queste ultime parole. E sono queste, disse allora Osvaldo, tutte le prove dell'interesse che mi annunciate? A dire il vero, replicò il conte d'Erfeuil, mi sembrano, quanto a me, abbastanza, per concludere con sicurezza di essere amato. Ma già che volete qualche cosa di meglio, voi avrete anche questo. Ho riservato da ultimo il più significante. È arrivato il principe di Castelforte e ha raccontato tutta la vostra storia di Ancona senza sapere che si trattasse di voi. Egli l'ha raccontata con molto fuoco e con tanta immaginazione, per quanto io ne posso giudicare dopo due lezioni che ho preso di lingua italiana, ma ci sono tanti vocaboli francesi nelle lingue straniere che noi le comprendiamo quasi tutte, anche senza saperle. Di più, la fisionomia di Corinna mi avrebbe spiegato ciò che non avessi capito, come vi si leggeva mai l'agitazione del suo cuore. Ella neppure respirava dalla paura di perdere una sola sillaba. E quando domandò se si sapeva il nome di questo inglese, la sua ansietà era tale che si poteva ben facilmente concludere quanto ella temesse che non fosse pronunciato un nome diverso dal vostro. Il principe di Castelforte disse di ignorare chi fosse quell'inglese e Corinna, volgendosi allora con vivacità verso di me, gridò «Non è vero che è stato lui? È Lord Nelville?» «Sì, signora», io le risposi. «Fu adesso, appunto». E Corinna, in sentire ciò, si struggeva in lacrime. Ella non aveva pianto nell'udire la storia, che vi era dunque di commovente nel nome dell'eroe più che nel racconto medesimo. «Ella ha pianto?» esclamò Lord Nelville. «Ah, perché non mi trovai presente?» Tralasciando poi di parlare, tutto a un tratto abbassò gli occhi e il suo volto maschile espresse la timidezza la più delicata. Si affrettò bensì di riprendere la parola per paura che il conte d'Erfeuil non si sturbasse nell'osservarla la sua gioia segreta. «Se l'avventura di Ancona, disse Osvaldo, merita di essere raccontata, ne appartiene anche a voi, mio caro conte, l'onore». «Si è pure parlato», rispose il conte d'Erfeuil ridendo, «di un francese amabilissimo che era là, milord, in vostra compagnia, ma nessuno fuori di me ha fatto attenzione a questa parentesi del racconto. Il fatto è che la bella Corinna vi preferisce, ella vi crede senza dubbio il più fedele di noi due. Voi non lo sarete forse, e forse anche le cagionerete maggiore affanno di quello che io le avrei prodotto, ma le donne amano le tetraggini purché siano sufficientemente romanzesche. In tale vista voi le convenite di certo». Lord Nelville soffriva a ciascuna parola del conte d'Erfeuil, ma che cosa dirgli? Egli non questionava mai e non ascoltava mai con abbastanza attenzione per cambiare parere. Lanciate appena le sue parole, non vi si interessava più, e il meglio era anche di dimenticarle, se si poteva fare, con la stessa sua rapidità. Capitolo terzo. Osvaldo visitò la sera presso Corinna con sentimento del tutto nuovo. Giudicò di poter essere aspettato. Quale incanto mai ha questo primo raggio di intelligenza con colei che si ama? Prima che la rimembranza s'accordi con la speranza, prima che le parole abbiano espresso i sentimenti, prima che l'eloquenza abbia saputo dipingere ciò che si prova interiormente, vi è in quei primi istanti un non so quale ondeggiamento, un non so quale mistero di immaginazione, più passeggero della felicità medesima, una più celestiale anche di quella. Osvaldo, entrando nella camera di Corinna, si accorse di non essere stato mai tanto timido, vide che l'era sola e ne provò quasi rincrescimento. Avrebbe voluto osservarla a lungo in mezzo agli altri, avrebbe gradito di essere assicurato in qualche guisa della sua preferenza, invece di trovarsi all'improvviso impegnato in conferenza, che poteva raffreddare Corinna a suo riguardo se, come ne era certo, egli si mostrava imbrogliato e conseguentemente freddo nel suo imbarazzo. Comunque, sia che Corinna si avvedesse di questa disposizione di Osvaldo, o che disposizione di tale tipo producesse in lei il desiderio di animare il dialogo per porre termine alla soggezione, ella si affrettò a domandare a Lord Nelvil se avesse veduto alcuno dei monumenti di Roma. No, rispose Osvaldo. Che avete voi dunque fatto ieri? Rispose Corinna, sorridendo. Sono stato tutto il giorno in casa, replicò Osvaldo. Da che sono in Roma non ho veduto che voi, signora, e sono stato solo. Corinna volle parlargli della sua condotta in Ancona e cominciò con queste parole. Ho saputo ieri, e quindi si soffermò e disse, vi parlerò di ciò quando verrà gente. Lord Nelvil aveva tale dignità nel suo contegno che intimidiva Corinna e dall'altra parte aveva paura, ricordandogli la sua nobile condotta di esternare troppo la commozione. Le pareva che ne dovesse mostrare di meno, quando non sarebbero stati più soli. Osvaldo rimase profondamente toccato dalla riservatezza di Corinna e dalla franchezza con la quale tradiva, senza volerlo, i motivi di questa riservatezza. Ma quanto più era turbato, tanto meno poteva esprimere ciò che sentiva internamente. Egli si alzò dunque tutto a un tratto e si avanzò verso la finestra. Pensò poi che Corinna non avrebbe potuto spiegare quella sua mossa e più sconcertato di prima ritornò al suo posto senza dire una parola. Corinna aveva nel discorrere maggiore franchezza di Osvaldo e la partecipava, nonostante il suo imbarazzo e nelle sue distrazioni, cercando un qualche punto di appoggio, le venne fatto di posare le dita sull'arpa che era situata accanto a lei e fece alcune consonanze a capriccio e senza oggetto. Quei suoni armoniosi, aumentando l'emozione di Osvaldo, sembravano ispirargli un po' più di arditezza. Egli aveva osato guardare Corinna. Ah, chi poteva guardarla senza essere colpito dall'ispirazione divina che si dipingeva nei suoi occhi? Era infrancato nello stesso istante dall'espressione di bontà che velava lo splendore dei suoi sguardi. Forse Osvaldo era sul punto di parlarle allorquando entrò il principe di Castelforte. Egli non vide senza pena Lord Nelvil a solo con Corinna, ma si era fatto l'abitudine di dissimulare le sue impressioni. Tale abitudine, che si trova sovente riunita negli italiani e a grande veemenza di sentimenti, era piuttosto in lui il risultato dell'indolenza e della sua naturale dolcezza. Era rassegnato sul non essere il primo oggetto dell'affezione di Corinna. Non era abbastanza giovane, aveva molto spirito, grande gusto per le arti, immaginazione animata quanto occorreva per variare la vita senza agitazioni e tale bisogno di passare tutte le sere con Corinna che se ella si fosse maritata avrebbe scongiurato il suo sposo di permettergli di venire ogni giorno nella sua casa come era solito. E a siffatta condizione non sarebbe stato sventurato oltre misura nel vederla legata a un altro. Le pene del cuore in Italia non sono complicate con le pene della vanità, di modo che vi si trovano o uomini tanto innamorati da uccidere il loro rivale per gelosia, o uomini tanto modesti da prendere di buon grado il secondo posto presso la donna la cui conversazione sia loro gradita. Ma non si troverà quasi qualcuno che per timore di passare per un uomo disprezzato rifiutasse di conservare una relazione qualunque che gli andasse a genio. E il conte d'Erfeuil e gli altri che si adunavano e radunavano tutte le sere in casa di Corinna, essendo sopraggiunti, si aggirò il discorso sul talento dell'improvvisare che Corinna aveva così gloriosamente mostrato in Campidoglio e si venne a domandare a lei stessa ciò che ne pensasse. È una cosa così rara, disse il principe di Castelforte, e trovare una persona che sia contemporaneamente suscettibile di entusiasmo e di analisi, fregiata come valente artefice e capace di osservare se stessa, che occorre scongiurarla per rivelarci, per quanto le sia possibile, i segreti del suo genio. Questo talento di improvvisare, rispose Corinna, nelle lingue del mezzogiorno non è più straordinario dell'eloquenza della ringhiera o della brillante vivacità del dialogo nelle altre favelle. Io dirò altresì che per nostra sventura questo è tra noi più facile. È più facile per noi fare versi all'improvviso che parlare bene in prosa. Il linguaggio della poesia differisce talmente da quello della prosa che fino dai primi versi l'attenzione viene comandata dalle espressioni medesime, che, per così dire, collocano il o la poeta in distanza degli uditori. E non bisogna attribuire l'impero della poesia fra noi unicamente alla dolcezza dell'italiano, ma anche piuttosto alla vibrazione forte e ben espressa delle sue sillabe sonore. L'italiano ha un incanto musicale che fa rinvenire un certo piacere nel suono delle parole, quasi indipendentemente dalle idee. Queste parole, d'altronde, hanno quasi tutte qualche cosa di pittoresco. Esse dipingono ciò che esprimono. Vi fanno sentire che in mezzo alle arti e sotto un bel cielo si è formato tale linguaggio melodioso e pieno di tinte. È dunque più facile in Italia che in qualsivoglia altro luogo sedurre con parole, senza profondità nei pensieri e senza novità nelle immagini. Io oso dire, tuttavia, che non ho mai improvvisato senza che un affetto vero, un'idea nuova non mi abbia animata. Spero dunque di essermi affidata meno degli altri al nostro linguaggio incantatore. Voi credete dunque, interruppe uno degli amici di Corinna, che il talento di improvvisare faccia torto alla nostra letteratura? Io anche lo credevo prima di avervi udito, ma voi mi avete affatto disingannato. Io ho detto, rispose Corinna, che da questa facilità, da questa abbondanza letteraria, ne risulta grandissima quantità di poesie comuni e triviali. Ma io sono ben contenta che esista in Italia tanta fecondità nella stessa maniera che mi compiaccio di vedere le nostre campagne ricoperte di mille produzioni superflue. Questa liberalità della natura mi fa insuperbire. Io amo soprattutto l'improvvisazione popolare. Questa ci fa vedere il popolo, ci fa vedere la sua immaginazione, che in ogni luogo fuori di qui è nascosta e che si sviluppa solamente tra noi. L'immaginazione somministra qualche cosa di poetico anche agli ultimi gradi della società e ci risparmia il disprezzo, che non possiamo fare a meno di sentire, per tutto ciò che è volgare in ogni genere. Quando i nostri siciliani, conducendo i viaggiatori nelle loro barche, indirizzano loro in grazioso dialetto amabili complimenti e dicono loro in versi un dolce e lungo addio, si direbbe che l'aura celeste o marina agisca sull'immaginazione degli uomini, come il vento sulle arpe eolie. Che la poesia, come le consonanze, sia l'eco della natura stessa. Un'altra cosa pure mi fa rilevare del pregio nel nostro talento di improvvisare ed è che questo talento sarebbe quasi impossibile in una società portata allo scherno. Occorre la bonomia di chi ascolta per poter improvvisare. È sufficiente un sorriso motteggiatore per togliere la presenza di spirito necessaria ad una composizione improvvisata e non interrotta. Serve quindi che chi ascolta si animi insieme a noi e che i loro applausi ci ispirino. Ma voi, signora, voi, disse finalmente Osvaldo, che fino allora se n'era stato in silenzio senza aver cessato un momento di guardare Corinna, a quali delle vostre poesie date voi la preferenza? A quelle che sono l'opera della riflessione o dell'ispirazione istantanea? Milord, replicò Corinna con un'occhiata che esprimeva molto interesse e il sentimento anche più delicato di rispettosa considerazione. Sareste voi quello che sceglierei per giudice, ma se voi mi chiedete di esaminare me medesima intorno a ciò che penso su tale proposito, io vi dirò che per me l'improvvisazione è come un colloquio animato. Io non mi lascio stringere a questo o a quell'altro argomento, mi abbandono all'impressione che produce su di me l'interesse di coloro che mi ascoltano e devo specialmente ai miei amici la maggior parte del mio talento in questo genere. Qualche volta l'interesse preoccupato che mi ispira a un ragionamento in cui si è parlato di grandi e nobili questioni concernenti l'esistenza morale dell'uomo, il suo destino, il suo fine, i suoi doveri, le sue affezioni. Qualche volta tale interesse mi innalza al di sopra delle mie forze e mi fa scoprire nella natura e nel mio proprio cuore delle verità audaci, delle espressioni piene di vita che la riflessione solitaria non avrebbe fatto nascere. Mi sembra di provare allora un entusiasmo soprannaturale. Mi accorgo bene che ciò che parla in me è più di me stessa. Mi accade sovente di lasciare il ritmo della poesia e di esprimere il mio pensiero in prosa. Qualche volta io cito i più bei versi delle diverse lingue che mi sono note, e si sono miei quei versi divini dai quali la mia anima è penetrata. Qualche volta pure io finisco sulla mia cetra con concerti, con arie semplici e nazionali, i sentimenti e i pensieri che sfuggono alle mie parole. Finalmente io mi sento poeta non solo quando felice scelta di rime o di sillabe armoniose, quando fortunata riunione di immagini abbaglia gli ascoltatori, ma quando anche la mia anima si eleva, quando ella sdegna la bassezza e l'egoismo, quando infine una bella azione mi sarebbe più facile, allora appunto i miei versi sono migliori. Io sono poeta allorché ammiro, allorché disprezzo, allorché odio, non con sentimenti personali, non per la mia propria causa, ma per la dignità della specie umana e per la gloria del mondo. Corinna si avvide allora che il discorso l'aveva portata fuori tema e arrossì un poco e volgendosi verso Lord Nelville gli disse: Voi lo vedete, io non posso accostarmi ad alcuno dei soggetti che mi interessano senza provare quella specie di scossa che è la sorgente della bellezza ideale nelle arti, della spiritualità nelle anime solitarie, della generosità negli eroi, del disinteresse tra gli uomini. Perdonatemelo, milord, benché sia donna, che niente somigli quelle che si commendano nel vostro paese. E chi potrebbe rassomigliarvi? Rispose Lord Nelville. E si può fare delle leggi per unica persona. E il conte d'Erfeuil era veramente incantato, sebbene non avesse compreso tutto ciò che aveva detto Corinna, ma i suoi gesti, il suono della sua voce, la sua maniera di pronunciare lo affascinavano. Era la prima volta che una grazia non francese aveva operato sopra di lui. Ma per verità, il grande incontro di Corinna a Roma gli additava un poco la via di ciò che doveva pensare di lei, e nell'ammirarla non perdeva la comoda abitudine di lasciarsi guidare dall'opinione altrui. Uscì con Lord Nelville e nell'andarsene gli disse: Convenite, mio caro Osvaldo, che io ho tuttavia qualche merito nell'astenermi dal fare la mia corte a persona tanto vezzosa. Ma, rispose Lord Nelville, mi pare che si dica generalmente che non è facile il piacerle. Si dice, riprese il conte d'Erfeuil, ma io faccio fatica a crederlo. Una donna sola, indipendente, che mena pressappoco la vita di un professore di belle arti, non deve essere difficile accattivarsela. Lord Nelville rimase ferito da questa riflessione. Il conte d'Erfeuil, sia che non se ne accorgesse, sia che volesse seguitare il corso delle proprie idee, continuò in tale modo. Non è peraltro che se io volessi credere alla virtù di una donna, io non credessi altrettanto volentieri a quella di Corinna che di qualunque altra. Ella ha certamente mille volte più di espressione nello sguardo e di vivacità nelle dimostrazioni di quello che bisognasse tra di voi e anche tra di noi per far dubitare della severità di una donna, ma si tratta di persona di uno spirito così superiore, di istruzione così profonda, di tatto così sopraffino, che le regole ordinarie per giudicare delle donne non si possono applicare a lei. Finalmente, credereste voi che io la trovi imponente, malgrado il suo naturale e la disinvoltura del suo dialogo? Io ho voluto ieri, rispettando però il suo interesse per voi, dirle alcune parole a caso, per mio conto, erano di quelle parole che diventano ciò che possono, e Corinna mi ha guardato freddamente in modo che mi ha del tutto turbato. È cosa singolare, però, l'essere timido con una italiana, con una virtuosa, con una poeta, con tutto ciò, finalmente, che deve togliere ogni soggezione. Il suo nome è ignoto, riprese Lord Nelvil, ma le sue maniere debbono farlo credere illustre. Ah, soggiunse il conte d'Erfail, nei romanzi solamente vi è l'uso di celare il più bello, ma nel mondo reale si dice tutto ciò che ci fa onore, e anche un poco più di tutto. Sì, interruppe Osvaldo, ciò accade in alcune società nelle quali non si pensa che all'effetto che producono gli uni sugli altri. Ma là dove l'esistenza è interiore, possono esservi dei misteri nelle circostanze, come vi sono dei segreti nei sentimenti. E solamente colui che volesse sposare Corinna potrebbe sapere. Sposar Corinna? Interruppe il conte d'Erfail dando in uno scroscio di risa. Si fate idea, non mi sarebbe venuta giammai. Badate a me, mio caro Nelvil, se volete fare delle pazzie, fatene di quelle da ripararsi, ma per il matrimonio non bisogna consultare mai che quanto è dicevole. Io vi sembro frivolo, e sia così, scommetto, nonostante che nella condotta della vita io sarò più ragionevole di voi. Lo credo io pure, rispose Lord Nelvil, e non aggiunse una parola di più. Infatti poteva dire al conte d'Erfail che vi è spesse volte dell'egoismo nella frivolezza, e che questo egoismo non può mai condurre a errori nei quali uno si sacrifica quasi sempre agli altri. Gli uomini frivoli sono capacissimi di divenire abili nella direzione dei loro propri interessi, poiché in tutto ciò che si chiama la scienza diplomatica della vita privata, come della vita pubblica, si riesce più sovente con le qualità che non si hanno che con quelle che si hanno. Assenza di entusiasmo, assenza di opinione, assenza di sensibilità, un poco di spirito combinato con questo tesoro negativo, e la vita sociale propriamente è fatta, vale a dire la fortuna e il grado si acquistano e si conservano assai bene. Gli scherzi del conte d'Erfail avevano però generato della pena in Lord Nelvil, e gli li biasimava, ma se li rammentava in una maniera importuna. Libro quarto, Roma, capitolo primo. Scorsero 15 giorni, e in questo tempo Lord Nelvil si consacrò ad essere sempre presente nella società di Corinna. Non usciva di casa che per andare da lei, nulla vedeva, nulla conosceva al di fuori di lei, e senza parlare ormai del suo sentimento, glielo faceva intendere in tutti i momenti del giorno. Ella si era abituata agli omaggi vivaci e lusinghieri degli italiani, ma la dignità delle maniere di Osvaldo, la sua apparente freddezza e la sua sensibilità, che traspirava al di fuori suo malgrado, esercitavano sull'immaginazione una maggiore potenza. Non raccontava mai azione generosa, non discorreva mai di disgrazie senza che i suoi occhi si riempissero di lacrime, e sempre procurava di nascondere la sua commozione. Egli ispirava a Corinna un sentimento di rispetto che ella non aveva provato mai da lungo tempo. Nessuno spirito, per quanto fosse distinto, poteva maravigliarla, ma l'elevazione e la dignità del carattere operavano profondamente sopra di lei. Lord Nelvil aggiungeva a questa qualità nobiltà nell'espressione ed eleganza tale nelle minime azioni della vita, che formavano un chiaroscuro piccante con la negligenza e con la familiarità della maggior parte dei grandi signori di Roma. Benché i gusti di Osvaldo fossero in qualche vista diversi da quelli di Corinna, essi si capivano scambievolmente in modo meraviglioso. Lord Nelvil indovinava le impressioni di Corinna con perfetta sagacità, e lei scopriva alla più leggera alterazione del viso di lui quel che passava nel suo interiore. Avvezza alle dimostrazioni burrascose della passione italiana, quell'attaccamento timido e altero, quel sentimento dimostrato e perennemente mai confessato, spargevano sulla sua vita un interesse totalmente nuovo. Ella si vedeva come circondata da un'atmosfera più dolce e più pura, e ogni istante della giornata le cagionava un sentimento di felicità che si compiaceva di gustare senza volersene rendere conto.